Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Per tutta quella notte e la mattina, Levin aveva vissuto in modo completamente inconscio e come al di fuori delle condizioni materiali dell'esistenza. Non aveva mangiato per una giornata intera, non aveva dormito per due notti, aveva passato varie ore spogliato al gelo e si sentiva non solo fresco e sano come non mai, ma del tutto indipendente dal proprio corpo. E quello che vide allora, in seguito non lo vide mai più. In particolar modo lo commossero i bambini che andavano a scuola, i colombi turchini che volavano dal tetto sul marciapiede e certi panini bianchi cosparsi di farina che una mano invisibile andava esponendo. Quei panini, i colombi e i due bambini erano esseri non terreni. Tutto questo accadde nel medesimo istante. Un bambino corse verso il colombo e guardò sorridendo Levin. Il colombo sbatté le ali e volò via, brillando al sole fra i granelli di neve che tremavano nell'aria, e da una finestruzza esalò un profumo di pane cotto e furono esposti i panini. Tutto questo insieme era così straordinariamente bello che Levin rise e pianse di gioia. Il portiere degli Scerbachi evidentemente sapeva tutto. Lo si vedeva dal sorriso dei suoi occhi e da come disse: «Ah, è un pezzo che non venivate, Konstantin Dmitrich!» Non solo lui sapeva tutto, ma evidentemente esultava e faceva sforzi per nascondere la propria gioia. Dopo aver guardato nei suoi cari occhi di vecchio, Levin capì persino qualcosa di nuovo della propria felicità. «Si sono alzati!» «Favorite! E questo lasciatelo qua!» disse sorridendo quando Levin volle tornare indietro a prendere il cappello. Questo significava pur qualcosa. «Chi devo annunciare?» domandò il domestico. Il domestico, benché giovane e di quei domestici nuovi e un bell'imbusto, era tuttavia un uomo molto buono e bravo, e anche lui capiva tutto. «Alla principessa, al principe, alla principessina!» disse Levin. La prima persona che vide fu Mademoiselle Linon. Mademoiselle Linon si affrettò e, lasciatolo, andò verso un'altra porta. Era appena uscita che dei passi leggeri echeggiarono svelti svelti sul parquet, e la sua felicità, la sua vita, lui stesso, il meglio di lui stesso, quel che lui aveva cercato e desiderato così a lungo, svelto svelto gli si avvicinò. Lei non camminava, ma si recava a lui portata da qualche invisibile forza. Vide solamente i suoi occhi chiari, veritieri, spaventati da quella stessa gioia d'amore che riempiva anche il suo cuore. Quegli occhi brillavano sempre più vicino e più vicino, accecandolo con la loro luce d'amore. Lei si fermò proprio accanto a lui, fino a toccarlo. Le sue mani si sollevarono e gli discesero sulle spalle. Lei aveva fatto tutto quello che poteva. Era corsa verso di lui e s'era data tutta, intimidita ed esultante. Lui l'abbracciò e premette le labbra sulla sua bocca che ne cercava il bacio. Anche lei non aveva dormito tutta la notte e per tutta la mattina lo aveva atteso. La madre e il padre acconsentivano senza discussione ed erano felici della sua felicità. Lei lo attendeva. Voleva essere la prima ad annunciargli la propria e la sua felicità. Si era preparata ad accoglierlo da sola e, rallegrata a questo pensiero, ne era intimidita e si vergognava e non sapeva neppure lei che cosa avrebbe fatto. Senza riflettere, senza domandarsi come e perché, lei si era avvicinata a lui e aveva fatto quel che aveva fatto. «Andiamo dalla mamma», disse prendendolo per mano. Egli non poté dir nulla per molto tempo, non tanto perché temesse di sciupare con una parola l'elevatezza del proprio sentimento, quanto perché ogni volta che voleva dire qualcosa sentiva che invece delle parole gli sarebbero sfuggite lacrime di felicità. Prese la mano di lei e la baciò. «Possibile che sia vero», disse finalmente con voce sorda. «Non posso credere che tu mi ami». Lei sorrise a questo «tu» e alla timidezza con la quale lui la guardava. «Sì», proferì significativamente, lentamente. «Sono così felice». Senza lasciare la mano di lui, entrò nel salotto. La principessa, vedendoli, cominciò a respirare forte e subito si mise a piangere e subito si mise a ridere, e con un passo così energico che Levin non si sarebbe mai aspettato, corse verso di loro e, abbracciata la testa di Levin, lo baciò e gli bagnò le guance di lacrime. «Così tutto è finito. Sono contenta. Vogliele bene. Sono contenta, Kitty». «Vi siete arrangiati presto», disse il vecchio principe cercando di essere indifferente. Ma Levin notò che i suoi occhi erano umidi quando si rivolse a lui. «Io lo desideravo da molto tempo, sempre», disse prendendo Levin per mano. Alexei Alexandrovich ritornava nella sua solitaria camera d'albergo, riandando involontariamente con la memoria alle impressioni dei discorsi fatti durante e dopo il pranzo. «Due telegrammi», disse il domestico entrando nella camera. «Scusate, eccellenza, ero appena uscito». Alexei Alexandrovich prese i telegrammi e li aprì. Il primo telegramma era la notizia della nomina di Stremov a quel medesimo posto che lui, Karenin, desiderava. «Sarà qualcosa dello stesso genere», si disse biliosamente aprendo il secondo telegramma. Il telegramma era della moglie. Per prima cosa gli saltò agli occhi la sua firma. «Anna, al lapis turchino. Muoio, prego, supplico venire. Morirò più tranquilla con perdono». Lesse. Sorrise sprezzante e gettò via il telegramma. Che fosse un inganno, un'astuzia, non ci poteva essere alcun dubbio. Così gli parve nel primo momento. Decise che sarebbe andato a Pietroburgo e avrebbe visto la moglie. Se la sua malattia era un inganno, avrebbe taciuto e se ne sarebbe andato. Se era effettivamente malata, in punto di morte, e desiderava vederlo prima di morire, l'avrebbe perdonata qualora l'avesse trovata viva e le avrebbe reso l'estremo omaggio qualora fosse giunto troppo tardi. Il portiere aprì la porta ancor prima che Alexei Alexandrovich suonasse. «Come sta la signora?» «Ieri si è felicemente sgravata». Alexei Alexandrovich si fermò e impallidì. Ora capiva chiaramente con quanta forza avesse desiderato la sua morte. «E la salute?» Dalla scala scese di corsa Cornei con il grembiule del mattino. «Molto male», rispose lui. «Ieri c'è stato un consulto di dottori e il dottore è qui anche adesso». «Prendi la roba», disse Alexei Alexandrovich, e provando un certo sollievo alla notizia che comunque c'era una speranza di morte, entrò nell'anticamera. All'attaccapanni c'era un cappotto militare. Alexei Alexandrovich lo notò e domandò: «Chi c'è qui?» «Il dottore, la levatrice e il conte Vronsky». Alexei Alexandrovich passò nello studio di Anna. Alla sua scrivania, di sbieco rispetto allo schienale, su una bassa seggiola sedeva Vronsky e piangeva coprendosi il viso con le mani. Egli balzò in piedi alla voce del dottore, tolse le mani dal viso e vide Alexei Alexandrovich. Vedendo il marito, si confuse talmente che si sedette di nuovo, infossando la testa nelle spalle come se volesse scomparire chissà dove, ma fece uno sforzo su se stesso, si alzò e disse: «Muore. I dottori hanno detto che non c'è più speranza. Io sono tutto in vostro potere. Ma permettetemi di star qui. Del resto, io sono in poter vostro. Io...» Vedendo le lacrime di Vronsky, Alexei Alexandrovich si sentì prendere da quello sconvolgimento spirituale che produceva sempre in lui la vista delle altrui sofferenze. E, voltata la faccia dall'altra parte, senza finir d'ascoltare le sue parole, andò in fretta verso la porta. Dalla camera da letto si udiva la voce di Anna che diceva qualcosa. La sua voce era gaia, vivace, con intonazioni eccessivamente marcate. Alexei Alexandrovich entrò nella camera e si avvicinò al letto. Lei era coricata, con il viso voltato verso di lui. Le guance erano rosse, gli occhi brillavano, le piccole mani bianche, spuntando dai polsini della camicia, giocavano con un angolo della coperta, attorcigliandolo. Sembrava che non solo fosse sana e fresca, ma nella migliore disposizione d'animo. Parlava in modo rapido, sonoro, con intonazioni insolitamente giuste e sentite. Improvvisamente si contrasse, si acquietò e sollevò le mani al viso con spavento, come per difendersi, come aspettandosi un colpo. Aveva visto il marito. «Oh, no, no, no», cominciò a dire. «Io non ho paura di lui. Io ho paura della morte. Alexei, vieni qui vicino. Mi affretto perché non ho tempo. Mi è rimasto poco da vivere. Adesso comincerà la febbre e non capirò più niente. Adesso capisco, capisco tutto. Vedo tutto». Il viso corrugato di Alexei Alexandrovich assunse un'espressione sofferente. Egli la prese per mano e avrebbe voluto dire qualcosa, ma non poteva articolar parola. Il suo labbro inferiore tremava, ma lui continuava ancora a lottare con la propria emozione e solo di tanto in tanto la guardava. E ogni volta che si rivolgeva a lei, vedeva i suoi occhi che lo guardavano con una tenerezza così commossa ed estatica che non aveva mai visto in quegli occhi. Thank you. Aspetta, tu non sai. Aspettate, aspettate. Si fermò come per raccogliere le idee. Sì. Ecco che cosa volevo dire. Non meravigliarti di me. Io sono sempre la stessa. Ma in me c'è un'altra. Io ne ho paura. Lei si è innamorata di lui e io volevo odiarti e non potevo dimenticare quella che c'era prima. Quella non sono io. Adesso io sono la vera, sono tutta io. Adesso io muoio. Lo so che morirò. Domandalo a lui. Lo sento anche adesso. Eccoli, i pesi sulle braccia, sulle gambe, sulle dita. Ecco come sono le dita, enormi. Ma tutto questo finirà presto. Di una cosa sola ho bisogno. Perdonami. Perdonami completamente. Io sono orribile, ma la gnagna mi ha detto una santa martire, come si chiamava, era peggio. E io andrò a Roma. Là c'è un eremo. E allora non darò fastidio a nessuno. Prenderò soltanto Seriosa e la bambina. No, tu non puoi perdonare. Lo so, questo non si può perdonare. No, no, vai via, tu sei troppo buono. Con una mano bruciante teneva la mano di lui e con l'altra lo respingeva. Lo sconvolgimento dell'animo di Alexei Alexandrovich aumentava sempre di più ed era giunto ora a tal punto che egli aveva già cessato di lottare contro di esso. Lei abbracciò la sua testa ormai quasi calva e gli si accostò e levò gli occhi in su con orgoglio pieno di sfida. Ricordo una sola cosa, che avevo bisogno solo del perdono e non voglio altro. Ma perché lui non viene? Cominciò a dire, rivolgendosi attraverso la porta a Vronsky. Aspetta, aspetta, dagli la mano. Vronsky si avvicinò alla sponda del letto e, vedendo Anna, si coprì di nuovo la faccia con le mani. Scopri il viso, guardalo. Lui è un santo, disse lei. Ma scopri, scopri il viso, prese a dire con ira. Alexei Alexandrovich, scoprigli il viso, lo voglio vedere. Alexei Alexandrovich prese le mani di Vronsky e le allontanò dal viso, orribile per l'espressione di sofferenza e di vergogna che vi era impressa. Dagli la mano. Perdonalo. Alexei Alexandrovich tese la mano a Vronsky senza trattenere le lacrime che gli sgorgavano dagli occhi. Per tutta la giornata vi furono febbre, delirio e deliquio. Verso la mezzanotte la malata giaceva priva di sensi e quasi senza polso. Aspettavano la fine da un momento all'altro. Dopo due giorni fu lo stesso e i dottori dissero che c'era una speranza. Quel giorno Alexei Alexandrovich andò nello studio dove era seduto Vronsky e, chiusa la porta, si sedette di fronte a lui. «Alexei Alexandrovich», disse Vronsky sentendo che si avvicinava la spiegazione, «io non posso parlare, non posso capire. Risparmiatemi. Per quanto voi soffriate, credetemi, per me è ancora più atroce». Avrebbe voluto alzarsi, ma Alexei Alexandrovich gli prese la mano e disse: «Vi prego di ascoltarmi, è indispensabile. Debbo spiegarvi i miei sentimenti, quelli che mi hanno guidato e mi guideranno, in modo che non abbiate a sbagliare nei miei riguardi. Voi sapete che mi ero deciso al divorzio e avevo persino iniziato la causa. Non vi nascondo che iniziando la causa ero nell'indecisione, mi tormentavo. Vi confesso che mi perseguitava il desiderio di vendicarmi di voi e di lei. Quando ho ricevuto il telegramma sono venuto qui con gli stessi sentimenti, dirò di più, desideravo la sua morte». Ma tacque, meditando se dovesse rivelargli o non rivelargli il proprio sentimento. «Ma l'ho vista e ho perdonato, e la felicità del perdono mi ha rivelato il mio dovere. Io ho completamente perdonato, voglio porgere l'altra guancia. Voglio dare la tunica quando mi si è preso il mantello e prego Iddio solamente che non mi tolga la felicità del perdono». Le lacrime erano nei suoi occhi e il loro sguardo luminoso, tranquillo, colpì Vronsky. «Ecco la mia situazione. Voi potete calpestarmi nel fango, fare di me lo zimbello del mondo. Io non l'abbandonerò e non vi dirò mai una parola di rimprovero. Il mio dovere per me è chiaramente tracciato. Devo essere con lei e ci sarò. Se lei desidererà vedervi, io ve lo farò sapere, ma adesso suppongo che per voi sia meglio allontanarvi». Si alzò e i singhiozzi interruppero il suo discorso. Anche Vronsky si alzò e lo guardò stando in posizione china, senza raddrizzarsi. Non capiva il sentimento di Alexei Alexandrovich, ma sentiva che era qualcosa di elevato e persino di inaccessibile per lui, per la sua concezione del mondo. Tornato a casa dopo tre notti insonni, Vronsky si sdraiò bocconi su un divano senza spogliarsi, incrociando le mani e poggiandovi sopra la testa. La sua testa era pesante. Le immagini, i ricordi e i pensieri più strani si avvicendavano con straordinaria rapidità e chiarezza. Ora era la medicina che aveva versato alla malata e fatta gocciolare dal cucchiaio, ora le mani bianche della levatrice, ora la strana posizione di Alexei Alexandrovich sul pavimento dinanzi al letto. Addormentarsi, dimenticare, si disse con la tranquilla sicurezza dell'uomo sano che se è stanco e vuol dormire si addormenta subito. Ed effettivamente in quello stesso istante nella sua testa tutto cominciò a confondersi e lui cominciò a sprofondare nell'abisso dell'oblio. «Potete calpestarmi nel fango!» Sentiva le parole di Alexei Alexandrovich e lo vedeva dinanzi a sé e vedeva il viso di Anna con il rossore della febbre e gli occhi luccicanti che guardava con tenerezza e amore non lui ma Alexei Alexandrovich. Vedeva la propria figura che gli sembrava stupida e ridicola mentre Alexei Alexandrovich gli toglieva le mani dalla faccia. Allungò di nuovo le gambe, si buttò sul divano nella posizione di prima e chiuse gli occhi. «Addormentarsi, addormentarsi», si ripeté. Ma con gli occhi chiusi vedeva ancor più chiaramente il viso di Anna così com'era in quella sera per lui memorabile prima delle corse. «Questo non è e non sarà, e lei desidera cancellarlo dal proprio ricordo. E io non posso vivere senza questo. Come potremo fare la pace? Come potremo mai fare la pace?» disse ad alta voce e cominciò inconsciamente a ripetere queste parole. Questa ripetizione di parole impediva che sorgessero nuove immagini e ricordi che lui, lo sentiva, facevano ressa nella sua testa. «Togli le mani», diceva la voce di Anna. Lui toglieva le mani e sentiva l'espressione vergognosa e stolta della propria faccia. Era sempre sdraiato, cercando di addormentarsi, benché sentisse che non ve ne era la minima speranza. Ripeteva sempre in un bisbiglio le parole casuali di qualche pensiero, desiderando con ciò trattenere l'insorgere di nuove immagini. Si mise in ascolto e sentì le parole che si ripetevano con uno strano, folle mormorio. «Non hai saputo apprezzare, non hai saputo approfittare, non hai saputo apprezzare, non hai saputo approfittare!» Balzò su e si sedette. «Per me è finita», si disse. «Bisogna riflettere su ciò che occorre fare, ma cosa rimane?» Il suo pensiero percorse celermente la sua vita all'infuori del suo amore per Anna. L'ambizione, Serpuchovskoi, la società, la corte. Non poteva fermarsi su nulla. Tutto questo prima aveva un significato, ma ora non c'era più niente. Si alzò dal divano, si tolse la finanziera, slacciò la cintura e, scoprendo il petto villoso per respirare più liberamente, fece un giro per la stanza. «È così che si impazzisce», ripeté. «È così che ci si spara, per non sentir la vergogna», aggiunse lentamente. Si avvicinò alla porta e la chiuse. Poi, con lo sguardo fisso e i denti stretti con forza, si avvicinò al tavolo, prese la rivoltella, la esaminò, la rigirò dalla parte della canna carica e rimase pensieroso. Per un paio di minuti rimase in piedi, con la rivoltella in mano, immobile, pensando, con la testa china e con un'espressione di intensa concentrazione del pensiero. «Si capisce», si disse, come se uno svolgimento logico, prolungato, chiaro del pensiero lo avesse condotto ad una conclusione indubitabile. In realtà quel «si capisce», per lui persuasivo, era solamente la conseguenza della ripetizione di un giro sempre identico di ricordi e di immagini attraverso il quale era già passato decine di volte nello spazio di un'ora. «Si capisce», ripeté quando, per la terza volta, la sua mente si avviò in quel cerchio senza uscita di ricordi e di pensieri. Allora, puntata la rivoltella al lato sinistro del petto e contratta con forza la mano a pugno, bruscamente tirò il grilletto. Elsa ha galbato ha letto Anna Karenina di Lev Tolstoi. Riduzione del testo di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.